Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi al telefono ritroviamo Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, saluto ai radioascoltatori. Allora, si è parlato molto in questi mesi del famoso Dieselgate, no? Il software che avrebbe truccato le emissioni di alcune case automobilistiche, tra questi la Volkswagen, ultimamente si era fatto anche il nome della Fiat, con una serie di smentite poi a seguito. Ma torniamo insomma su questo argomento interessante di cui l'Adico si sta occupando per un bel po' di soci. Sì, noi abbiamo trovato parecchi soci per la questione Volkswagen. La questione Volkswagen rispetto appunto a quella della Fiat, insomma, si è sviluppata in termini molto negativi per la casa automobilistica tedesca, che ha ammesso di aver montato questo software trucca emissioni in molte vetture, per cui insomma è scoppiato il famoso scandalo. Tutti riferivi poi a quello che è venuto fuori con la Fiat, che effettivamente per ora la questione è stata smontata attualmente, però adesso vedremo cosa succede. E sempre nella sua trasmissione abbiamo parlato anche degli airbag difettosi montati sulla Toyota e su altre vetture, quindi insomma diciamo che non è un gran periodo per le grosse case automobilistiche internazionali e anche per gli acquirenti, che ovviamente si trovano ad acquistare delle vetture credendo che abbiano certe caratteristiche ed evidentemente si trovano con tutt'altre caratteristiche. Addirittura per quanto riguarda l'airbag da casa stiamo parlando di situazioni di pericolo per gli acquirenti. Ora noi torniamo un po' all'argomento Volkswagen, perché lo stiamo seguendo da parecchi mesi, stiamo seguendo diversi soci e noi come associazione, ma credo che l'abbiano fatto anche altri, oltre ovviamente a sollecitare il cambio del software, ovviamente questo comunque è stato fatto in gran parte, comunque molte auto sono state richiamate, noi chiaramente, penso legittimamente, abbiamo anche avanzato una richiesta risarcitoria nei confronti della casa automobilistica, presi fatto, Francesco, che comunque chi ha acquistato una certa vettura l'ha acquistata credendo che avesse certe caratteristiche, anche a livello ecologico, si è trovato con tutt'altre caratteristiche. Noi riteniamo insomma che ci sia un danno risarcibile e l'abbiamo anche appunto specificato. Purtroppo la risposta di Volkswagen è stata attualmente negativa, nel senso che c'è stato risposto che loro comunque si sono adoperati per sostituire i software, si sono adoperati per sostituirli anche in futuro, insomma in ogni caso hanno programmato la sostituzione, quindi loro dicono noi siamo a posto così. Per noi questo insomma sono un po' degli atteggiamenti di chiusura anche di fronte a delle colpe clamorose, perché insomma sappiamo lo scandalo, sappiamo anche la spesa che ha affrontato Volkswagen per sostituire tutti i software. Noi crediamo che in questa fase ci sia una situazione tale per cui gli utenti, i consumatori, in questo caso gli acquirenti delle vetture, non siano tutelati, non siano rispettati. Tutelati, insomma, cerchiamo di farlo noi per quanto sia nelle nostre forze, per quanto è nelle nostre forze. E però appunto in questo caso ci siamo trovati di fronte a un muro di gomma, però ecco, noi proseguiamo. Infatti abbiamo deciso di convocare tutti i soci Volkswagen, sì, nella nostra sede, tutti quelli che stiamo seguendo per questo motivo, e valuteremo appunto delle azioni successive, anche delle azioni legali, magari delle vere e proprie cause nei confronti di Volkswagen, perché appunto noi non intendiamo recedere da questo nostro proposito di ottenere anche un risarcimento. Noi abbiamo anche scritto a Volkswagen per un incontro, attualmente non abbiamo ottenuto risposta e anche questo, Francesco, un po' ci dispiace, perché riteniamo insomma che ci debba essere un dialogo tra consumatori e aziende. Questo dialogo evidentemente è unilaterale, loro hanno fatto un grande errore, loro credono di risolverlo solo in questo modo, cioè sostituendo il software, però insomma non, le situazioni sono diverse. Certo. Diciamo che se dovessero trovarsi a rifondere dei soldi a qualche consumatore, poi questa cosa prenderebbe una piega, come dire, a macchia d'olio e non so quanto riuscirebbero a sopravvivere poi a una cosa del genere come azienda. Però alla fine, se noi andiamo a monte proprio della situazione, stiamo parlando di un gravissimo, di una gravissima, se anche parla truffa tranquillamente, perché insomma qua stiamo parlando di una grossa casa automobilistica, non quindi di una casetta automobilistica da poco, che ha montato dei software truccati, quindi, per truccare appunto le emissioni e per così aggirare un po' le regole ecologiche. Riteniamo che sia un fatto gravissimo e noi continuiamo a sostenere che sia stato un danno, al di là del fatto di sostituire il software, un danno economico che debba essere risarcito. Quindi diciamo che noi andremo avanti e chiaramente ti terremo aggiornato sugli sviluppi, perché credo che ce ne saranno presto. Va bene, quindi a testa bassa si va avanti, forza Adico. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it per i contatti e tutto quello che vi può servire. Ci sono anche tante belle notizie utili e interessanti. Grazie quindi a Gianluca Codognato, ci ritroviamo tra un paio di giorni. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.